Zolt. Fulminati in azienda. Pronto? Oh Marco, ciao, sono io, sono Squalo. Grande, grandissimo Squalo, tutto bene? Allora, sei contento o no dell'iniziativa Calcio per Tutti? Guarda Marco, ti chiamavo proprio per questo, qui è una festa continua, siamo qui con i ragazzi al ristorante Dananda a festeggiare, grazie alle core, guarda, sto schermo che ci hai fatto installare sul tetto dalla sede nostra è veramente uno spettacolo. Non avevo dubbi Squalo, tra l'altro sento un brusio di fondo, tipico brusio di Nanda, senti, ma io non avevo dubbi, sapevo di farvi felici Squalo. Sì, guarda, tra l'altro poi abbiamo compilato tutte le schede con la domanda sei felice di stare in azienda? È stato un plebiscito, tutti ma grande, molto felici di stare in azienda. Perché come io e te sappiamo, Squalo, il calcio allunga la vita, perché fa bene. Comunque sei gentilissimo a chiamarmi per questi ringraziamenti, mi tiri su di morale, Squalo. Marco, senti, poi a dirla tutta veramente ti chiamavo anche per dirti che mentre noi vediamo le partite, chiaramente no, nessuno di noi sta a vendere, insomma, immagino che pure in sede non se lavori. No però Squalo, allora NCS non ci siamo, non mi posso fidare di voi, ma scusami, ma io vi regalo un maxi schermo e voi mi smettete di lavorare? Sì, c'hai ragione Marco, però sembrava brutto visto che ci hai dato la possibilità di vedere queste partite, poi di non vederle, sai, magari ti offendevi. Ma cosa stai dicendo? Certo, adesso mi mettevo a piangere io perché... Ma dai, quant'è che avete venduto l'ultima settimana? L'ultima settimana abbiamo venduto così a fa' due conti, praticamente zero. Ecco, stiamo ancora sotto del 50% sul budget. No, e allora non ci siamo veramente, Squalo. Apri bene le orecchie e scusa se mi altero. Da domani, Zach, via lo schermo, via le partite. Schermo, non datur. Allora, la situazione è gravissima. Dobbiamo trovare un'idea per risollevare le sorti delle vendite. Lo Squalo mi ha confermato poc'anzi che siamo sotto del 50%. Beh, scusa Marco se te lo dico, ma forse allora far vedere tutte le partite dei mondiali non aiuta in questo periodo. Però adesso non rimuginiamo sulle scelte del passato. Sì, anche perché ormai non si può tornare indietro, sarebbe una rivoluzione. Appunto, allora voglio che il primo pomeriggio libero e senza partite facciamo una riunione per farci venire brillanti idee per vendere. Eh sì, ma capo, se posso, perché continui a fare riunioni per farci venire idee che non vengono? Mi pare che siamo a rischio di contagio da malattia delle riunioni, a riunite. Disfattista, sei il solito disfattista, centrifuga. Propone anziché criticare. Paragone, super consulente, tu cosa faresti? Io convocherei una riunione per farci venire brillanti idee su come farci venire delle idee. Scusa, che tradotto sarebbe? Facciamo una riunione in cui vi dico le ultime tendenze usate nelle aziende moderne per farsi venire idee moderne, innovative. Sì, ecco, non ce le puoi dire ora queste tendenze moderne? Beh, devo studiare, documentarmi, preparare il materiale. Sì, certo, e magari anche estendere il nuovo costosissimo preventivo. Fai una cosa, furbettino. Ok per la nuova riunione, non ok per la nuova fattura. FBL, fai ballare l'occhio, consulente. Bentrovati, vi ho voluti riunire tutti in questa bellissima location all'aria aperta. Sì, ecco, bando alle ciance, grazie, voglio proposte concrete, e cioè come facciamo a farci venire brillanti idee oggi, tecniche ed esempi. Allora, la prima è il brainstorming all'aperto. Sì, e questa sarebbe una nuova idea. La seconda è il brain walking, ovvero scampagnate in città con tanto di pedule, racchette, piccozze. Ecco l'attrezzatura, naturalmente vestiti da pinguini, come si addice ai veri manager. Questo non è male, mi sembra molto green, walking. La terza è il train walking, ovvero si cammina accanto alle rotaie aspettando i treni in corsa. Ma che te sei impazzito? La quarta è il down train. Sotto il treno. Ma no, centrifuga, voleva dire down training, capito? Ovvero sotto il training della formazione. Ecco, mi ispira questa... No, schedula, centrifuga ha ragione. È proprio down train. Ci si sdraia sulle rotaie 5 minuti prima dell'arrivo di un treno. Ci si può alzare solo 10 secondi prima dell'arrivo o dopo aver tirato fuori 500 idee. Ma sai che non mi sembra male quest'ultima, consulente? Ma tu, scusami, l'hai già provata da qualche parte, in qualche azienda? Sì, in 3 aziende. Nella prima abbiamo tirato fuori 348 idee, nella seconda 451 idee. E nella terza? Nella terza non si sono rialzati in tempo. Vabbè, mica male però, no? Abbiamo 2 possibilità su 3 di farcela. Zot è scritto e interpretato da Andrea Beretta, Nicola Giunta, Andrea Notarnicola e Patrizia Sorrenti, con la partecipazione di Chiara Romersa, Emanuele Margiotta e Pina Luciani. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.